niente, mamma mia, come fa a tenerlo là? Non me l'ha detto, ma dice che è un bel massiccio così, eh. Io non l'ho mai visto, Gioca molto con mia figlia, però non l'ho mai visto, come hai capito. Non so manco che razza sia, boh, che tipo di cane sia. Ma non è aggressivo praticamente, così è. Ah, capito. Va bene, dai, Domè, ti saluto, un abbraccio grande, ogni tanto già entro a salutarvi. Mi hanno già chiamato due volte a cenare. Fatela buona, buon viaggio, buon rientro, buon tutto da me. E ogni tanto un colpo di telefono e ci facciamo due chiacchiere. Sì, quello è il team, solo quello c'ho. Poi c'ho l'altro di servizio che magari ti do quando ci sentiamo, che quello lì è Umiter, se tu c'hai l'Umiter, capito? E ci sentiamo lì domenica. Va bene, ciao, un abbraccio grande e buon fine serata, buon tutto, alle prossime domeniche vado a cenare, ciao. Ho contraccambiati domenica. Ci sentiamo dopo, se mai. Io sono qua. Puglia. Dove sei adesso? Mi sta arrivando bene. Già, si sente. Dice, dove sei? Via Baldetta. Mi aggrotte, mi avanti, mangiato. No, no, ero in ascolto, sto andando, vi lascio. Ciao, B2. Ciao anche a te, ragazzi, sono arrivato al terreno messo. Ciao a tutti. Prende chi rende. Ciao Bidu, ci sentiamo, buona carica, dai, quando la fai. E tu cosa vuol dire? Bozzi, bozzi. Sì, ma devo dire la verità, non mi attizza. c'è un po' mille piccoli, tutto in plastica, non è che mi piace tanto. Mi piace di più il Galaxy, ma alla grande. Che bene. Cos'è? Piace bene, Roberto. Sì, piace bene, ma però fatti sentire l'altro. Roberto, fatti sentire come hai fatto sentire la mano. Vai. Guardate, qua tocchi meglio. Luca. Vai. Questo è un altro Inter che sta nel base con un... cos'è il microfono? Un M600. Libero lo stesso. Com'è basso come livello microfonico? No, va bene. Meglio dell'altro, dell'ultimo di quell'altro Inter? No. Tra i due che è meglio, questo di adesso o quello che stavi ascoltando prima? Quello di prima, comunque questa qua è bella. Non ho capito. Ho detto che era meglio quella di prima, ma anche questa qua non è male. Cappa, aspetta, te la faccio sentire un'altra. Questa ti piace? Sì, fai. 1, 2, 3, prova radio, questo è il vecchio Tanner col patch. Questa è bella radio, bella. La realtà è questa proprio, come mi dicevate prima, era la migliore questa. Quindi a te ti piaceva la prima che hai ascoltato, lui, quella con l'Inter che, con la stazione base, prima di quell'altro, l'M600? Sì, ma cioè, questo tutto è vero, beh. Cioè, esce bene di radio, però di ricezione non mi invia di lunga questo patch. Appena ci sono segnali furti, per dire quando trasmette Antonio, cioè Antonello e Claudio, devo chiudere tutto le referie, se no va in saturazione. Però come modulazione va bene, almeno io mi sono ascoltato, è una di quelle che rende più di tutti. Quell'altro è che è stata la base, funziona con una meraviglia ricezione, ma in trasmissione è così così. Ah, va benissimo, roba di lusso. Adesso ho messo tutti i commutatori dell'antenna, posso attaccare alla quante radio, 1, 2, 3, 4, 5 radio in contemporanea posso far girare. E va bene. Sono sempre rosso e tuo, già quando capita già ti posso vedere la fotografia della stazioncina che mi sono fatta, ho messo tutte le radio e poi tutte le attrezzature del ciò. Luca, scusate. Luca. Cappa. Cappa, ovvia. Cappa che ti vedono. Guarda che te l'ho trovato, però non ho capito se vuoi il touch screen o anche il o solo il display. Solo il display, amico mio. 29 costa. Cazzo, così tanto. Scusami Robert, il come si dice, il touch screen costa 16 e il display costa 29 euro. Se non l'hai trovato, scusa, se vuoi ti do il sito, aspetta un attimino che lo recupero. Mi mandalo su Facebook. Cappa, scusate, riprendi, sono qui Rix. Perché lo chiamo, glielo dico, devi aggiungere un po' di soldi. 29 più spese, compreso di spese. Qua dice compreso IVA, non so se le spese le metto o meno. Comunque ti do un paio di siti perché ne ho girato un paio e tutti quanti allo stesso prezzo. 29 il display e 16 il touchscreen. Parti già. Ehi, mi stavo guardando qui su internet qualche cosa, ma non venuta. Mi sto stufando. Sebbene non c'è più nulla. Vogliamo su giù. eBay adesso deve guardare eBay annunci, non più eBay classico. Cappagamma. No, già ce ne, se guardi eBay annunci, ci sono, non devi entrare in app, acquisti direttamente con numero di telefono, tipo subito. Aspetta che guardi. Oh Luca. Ehi, scusa un attimino, segnatelo un attimo, che non riesco, che sono sul tablet e non riesco a inviarti il link. Aspetta che sto... le seconde, aspetta che sono bloccato, sto cacchio il computer, aspetta. Come la ascolti in alto con questa radio? Bene, cioè, diciamo che esalta gli acuti. Vabbè, sicuramente prendere rispetto a un altro tipo di microfono magari ti spara un po' più gli acuti, ma lì è chiara, tutta perfetta, come in vicinanza. No, bella, presente, croccante, come dire io, quando croccano. Adesso metto l'altra, così mi dici pure, anche tu un parere. Beh, che hai fatto qualcosa, non ci sei. Aspetta. aspettano, beh, guarda che c'è qualche casino ahí. No, scusa, stavo commutando l'altro apparato, ho sbagliato, ne ho due di internet, ho messo l'altro. Ecco, questa qua è più avanzata, più tendente ai gravi, meno croccante, meno squillante, meno acuti. Ma è chiara abbastanza o è una cagata? Diciamo che quella lì c'è più presenza, nel senso che questa qua c'ha meno profondità, è più avvattata, è più leggermente impastata, ma ti devo guardare il pelo nell'uovo, però per il resto è tutto bene. E questa qui invece? Questa qua è ancora leggermente più cupa, se mi è sembrata. Dove è qua sul microfono mezzo di fascia, dove è qua, come me l'hai detto, ripeti? Aspetta un attimo, non mi sembra, aspetta che alzo un pochettino, se parti dal presupposto che ti sto ascoltando con una colonnina di una LAN 48, però mi sembra un pochettino cupa, quella che preferisco di più è quella col Turner, sicuramente. Sicuramente anche io lo immaginavo. Dimmi un po', livello microfonico dalle 3, questa è la più bassa di tutti, Ciampa di Roger. Qua sono al minimo, va, ti sollevo appena, guarda se migliora. No, tendi a strappare qua. Aspetta, mi abbasso ancora, adesso? No, non mi piace, proprio è un po' intubata, capito? Sì, ma il livello microfonico com'è? Perché qua è tutto regolare. No, va bene, cioè il livello di volume è ottimo, va benissimo così. Il problema è che però stai uscendo male. Ma dimmi al tuo. Ora scrivi Tecnofon, scritto T-E-K-N-O-P-H-O-N-E, Tecnofone, fone, scritto P-H-O-N-E. Bravo, HTTP, giusto? Non lo mettere neanche HTTP, metti www.T-E-K-N-O-P-H-O-N-E.net, dopodiché ti schermata principale, e allora lì sul motore di ricerca del sito puoi mettere LG T500 ricambio o display, metti. Aspetta, tu ripeti, vai, dimmi la pannetta www.t con chilo, ricordo poi Napoli, Otranto, Palermo, Hotel, Otranto, Napoli, Empoli, .net. Cazzo, sei dopo Guaroccia tu, boh. Sto cercando di visione di Sigenti. Break! Campa registrati il break, scusate un attimino, ripeto questa cosa, era Torino, Empoli, Chilo, Napoli, Otranto, Palermo, Hotel, Otranto, Napoli, Empoli, .net. Se mi sentono questo alfabeto fonetico me ne ritirano la patente. Avanti il break, la buonasera. Buonasera a tutti. Tanto io controllo di questo microfono se l'ho fatto giusto. Ultimo abbondante, Daniel, ben entrato, ben sentito, io sono in quel Rix che sto finendo di fare una cosa. Riprendi Gianni e ricambia il controllo per Daniele, ciao. Ciao Daniele, mi hai sentito, dai, va bene il microfono, hai fatto un buon lavoro, non c'è nessun problema. Allora, no, neanche i rumori strani ci sono, no? Niente, silenzioso, tranquillo, non stai innescando, no? Prova a premere la portante e a non parlare. E un piccolo rumorino si sente sottofondo, ma proprio leggero. Aspetta già. Senti, vento della alimentatore. Guarda adesso. Adesso chi? Cava, era la vento dell'alimentatore, dai. Dai, riprendetevelo che sto finendo qua, dai, sentiamo più tardi se coincide. No, oh Gianni, che sto per chiudere, l'ultima cosa. La radio, il livello di radio com'è questo? No, va bene, Roberto, non è fortissimo, ma va bene, tranquillo. Guarda, posso ancora sollevare, guarda se peggiora così, sollevato. No, non si è sollevata nulla per me. Ah, siamo maduri, va bene. Ok. Oh, signori, vi saluto, dai, che mi guardo un po' di televisione, voglio vedere un programma che mi interessa. Ciao a tutti, buon proseguimento, dai. Se capita già ci risentiamo in altre occasioni. Ciao, cuoretti da parte a me. Cava. Ciao, Robert, ci sentiamo. Antonio, niente, non c'è. Ciao, Robert, alla prossima. Antonio, pronte. Ma che cazzo? Aspetta già. Ok. No, non c'è. Che è successo qua? Aspetta già. Eccomi. Che dolore. Ok, vediamo un po'. Mi senti già? Sì, io. Come stava innescando? Mi sei... Boh, mi sei addormentata la mano, aspetta. Adesso cosa so vendendo? Corpi macchina della Nikon, di quelle normali, 40 euro, che costavano una banca di dinamo. Capito, ripeti? Ma vedi, stanno vendendo i corpi macchina della macchina fotografica Nikon, quelle normali, 40 euro, costava una barca di sul. Una miseria proprio. No, ma infatti non conviene più nemmeno venderlo. Antonio, Tecnophone, pone, P-H-O-E-N, P-H-O-N-E. Palermo, hotel, Otranto, New York, Empoli. Non c'è niente, ho scritto il nome del display, ma non lo dà. Mi dice praticamente, risultato, guarda la ricerca, display del CD per cellulare LG T509. Aspetta un attimo già. Beh, Gianni. Scusami che mi stanno filando le cuffie. Avanti. Ehi, ha già. Daniele. Stavo guardando su internet questo qua che c'è una barca di baracchini in casa. Un museo ha fatto. Cosa? La roba di 200 portatili. Solo. Oh, e poi c'è apparecchi di tutti i generi, alimentatori, antichi, di vecchia era, di nuova era. Chiara. Ehi! No, vai già! Mi hanno mandato, siccome sono iscritto su CB, eccetera, eccetera, mi hanno mandato link e sono entrato. Eia. Comunque questa non sta funzionando bene, già. Già sta funzionando bene, dai. E c'ha una fila di microfoni, una fila di due o tre file di cose, di portatili. Insomma, è piena di roba. Ah, vabbè, adesso c'è già spazio a mettersi tutta questa roba. Sì, deve essere una mansarda, poi c'è un bel di roba, c'è un bel di armadi, libri cibini, tutti i generi. Va bene, aspetta, faccio un attimo di bianco e vado a bermi un po' di caffeina. Vabbè, sono qua, dai. Ehi, già. Gaba. Hola. Samsung, aspetta, GT5000, se non mi ricordo, quello Ace, c'è detto Ace, veramente, però si pronuncia Ace. Pensavo al Galaxy. Come? Pensavo al Galaxy. Ciao al Galaxy, anche il Next. Ciao, ciao. Che bello, ciao. C'è wifi, c'è tutto, la storia che il telefono. Allora, se lo usi per telefono reale, ok, la batteria dura, ma se lo usi per connetterti a internet, te ne butta la batteria in poco tempo. Lo so. Te lo prendo? Io ho visto, avevo usato il navigatore nell'altro telefono, nell'altro Nokia, L7, e mi ha buttato in meno di un'ora la batteria. Adesso un iPhone, porti un display con touch, e non è giusto, il 3S, G. Cioè, è buono. Ti auguro, 36 giga di memoria, c'ha. Che curare. Se vuole andare in parlare, mi ha comprato anche la scheda di 16 giga. Auguro, mettere il porto dentro, no? Se tutto va bene, non lo so, andate a vedere il computer anche. Pure, e non ti sposi ancora? Mi sposo, andiamo a vedere. Oh, yeah. Ciao Luca! Ciao Francesco! E allora, allora? E poi per adesso stai combinando, Lu? Ma io non ho detto niente. Casino, tanto quei soldi, ma mi lavoravo di prendere, la leva stavano via. Questo è poco ma sicuro. Luca, io sono passato in banca, in banca stamattina. E mamma? Per quei soldi, e niente, ancora non ce ne sono. Ma sai che non me l'hanno accettata, la domanda, cioè, mi volevano rimborsare i soldi, ma non li ho voluti, ho detto, guardatemi un paio di mesi. Non c'è problema, posso anche collaborare, gli ho detto. Ma se non c'è niente, boom, boom, per carità. E infatti però sono piangato. Adesso vediamo un po'. Ma si sbloccava tra, penso, i primi di novembre o i primi di dicembre. Se no, direttamente a gennaio. I primi li ho presi il mese scorso, e gli altri oggi avevo già uno, adesso passo la mattina. Quanti mesi? Non lo so lui quanti mesi, non te lo so dire, perché gli ho detto che a febbraio, gennaio febbraio iniziavo di là, e non lo so. Dove? Ho detto che avevo chiamato, avevo fatto i televisi tutto quanto di là. E però non so se mi dà per 6 mesi o per quanto è. Ma comunque stai dicendo? Eia, perché non è tutta la storia, ho fatto domanda lì al comune e tutto quanto. Capito, lo sa. E 6 mesi sono. Eia, però questi qua non so quanto me ne dà. Ma non fa niente? No, non mi ha detto niente, no, se devo andare, se non devo andare, non mi ha detto niente, nessuno mi ha chiamato, sto prendendo questi soldi e basta. Faccio, vedi, non lo so, vediamo se non lo devo andare a chi darli, a chi no. Cioè, gli dico, gli ho detto sui dipendenti, per spostarseli, capito? Ma ce l'ha chi ne ha bisogno, no? Maledetti, però se non ho a chi darli, ma comunque forse mi devo di fare 6 mesi di comune, l'aria nostra, è bene, lì ti prendi, fai ti prendi anche 900 al mese, ma va bene. Più che bene. Infatti mi ha organizzato anche altri soldi a febbraio per il bambino, di andare, che mi dava l'assegno. Vabbè. prendi un po' tu, guarda, lo prendi le palle. Maledetta. La mia è maledettissima, va. Ma non viene nessuno. Sai che una volta l'ho anche picchiata. Chi vai? No, la mia invece, allora, se io vado che non c'ho lavoro, mi cioè, non trovo lavoro in quest'ultima situazione mia. Sono più l'ultima volta che sono andata, e l'ultima volta che sono andata ho detto che me lo licenziate tutto quanto, metto la lascia, ma penso ci sono altre la situazione. Cioè, ogni volta è sempre un casino, Uno schifo, uno schifo. Beh, vabbè. Che? Vedi un po', oh, so. Oh, guarda. Adesso domani te la chiamare. Oh, un pollino. Questa lavoro non si può. Non si può, non si può. Mi hanno un lavoretto. Che almeno devi guadagnare qualcosina ogni mese. Può lottare che vanno da parte, sennò così non si campa, Tu qua adesso da mazzo fermo. Non esito più nulla. Ma tu qualcosa da io, metto a posto qualche cellulare, qualche computer, ma niente di che. Allora, tanta arrangia che bisogna fare. Ma sono la gente che non paga, capito? Fai poco al sicuro. Se trovi un posto di lavoro c'è la frutta sotto. Infatti. Potrei fare anche due lavori. Se me li passano, quella è la gente che non paga, non c'ha soldi. Perché se tu vai, facciamo un esempio, no? Vai in un centro assistenza, ti porti il telefonino e tu dici, mi sei rotto il display, guarda, ci vuole, lui ti dice una settantina di euro. No? Di cui 30 euro di display o 40 euro di display e 30 di mano d'opera. Quindi a me dici, quanto mi prendi lui? Se il display conta 30 euro, allora è 20, 25 sei a posto. E stai già risparmiando, no? Ma ce ne la fanno gli altri, cioè quelli che me lo portano. Mi dicono che è troppo, capito? Ma porta la sua assistenza. Quindi se quanto paghi. E lì non è che dici che è troppo o no. Ma lì mi danno la garanzia. Certo, anche io te la do la garanzia. Se il display non va, si dismonta e si rispedisce, non è un problema quello. Come fanno loro la stessa cosa. Cioè, comunque non capiscono. Purtroppo è così, purtroppo è così. Chi è che sta chattando qua? Aspetta. Claudia. E niente, adesso ho uscito una ragazza, niente, sta in Germania, è sposata, cioè è sposata, è quasi separata, ha due figli, ma non mi interessa a me. Adesso faccio questi regalini per simpatia. Già va bene. Almeno passi il tempo, dai. Passi il tempo, va. Passa il tempo, va bene. Già. Le tedesche sono dure, Luca. Ma guarda che siciliano, non è tedesca. Allora già va bene. Perché le tedesche sono molto dure. Non si può dire, anch'io sono duro. Ma loro sono dure di carattere, di non sono dolci come donne. Per me la donna deve essere dolce. Ok, quali sono severe lui le tedesche? Le tedesche si mettono il giubbotto con le borchie e i valori di quelli alti fino al ginocchio. E la frusta e vai. Avanti! Buonasera, stazione Alfa Bravo, mi potete dire cosa sto facendo per prova antenna parafica? Alfa Bravo, buonasera Luca, da questa sei tutto occupo da me, segnale 9, radio occupa, avanti. Ho capito, più colpa di antenna parafica, vabbè, l'importante è il segnale comunque. In che zona? Porta Rosello Aldo, cadete in Canada. K925 930. L'altro amico? Ma lascia il figlio a noi. Gianni, doppio nome Daniele, davanti Gianni. Ciao Fra, mi hai sentito? La radio, come ha detto Luca, è un po' cupa con Massina anche. Ma forse sei tu che stai parlando a voce bassa. Poi il segnale non ho guardato, se viene avanti di nuovo. Sì, la radio è così, regolata così per adesso. 34, anche per te 920, ciao Gianni, buonasera. Segnale per te Santiago Roma, dai. Comunque, mi sei arrivato anche più forte Gianfranco. Lo so, ma sono soddisfatto. Tutto di potenza di 2 watt in antenna, quindi di norma 5-6. Benissimo, ti ringrazio, abbiamo presentato tutti e buonanotte. E allora più che bene, dai. Buonanotte anche a te, avanti. Allora riprendi tu da lì. Dai, sei un tuo amico, 9-5, dai, radio abbastanza cupa anche la. Comunque alle prossime, dai, buon proseguo. Ti prendi già? Daniele. E dimmi chi è? Io da Saritta. Male Adrian tu. Oh Luca, ti devo chiedere una cosa. Ridami il numero di telefono, fammi uno sbiglietto e richiamo io. Vabbè, richiamo io, aspetta, ho qua il numero. Aspetta. Allora, cazzo. Aspetta. 438 finale. Sì. Fai uno squillo, poi ti richiamo io che c'ho l'abbonamento. Ok, sì, ti faccio uno squillo. Vai, chiamo. Davvero? Gianni? Come? Ah, sì, ti spariti, sì. Allora, va bene, dai ragazzi, torna alla base, dai. Ci sentiamo alle prossime se coincide. Ciao, anche la tua prossima che sento che sta salutando. Ehi, era Francesco, vabbè, come c'eri quasi già là? Non pensavo che fosse la tua fidanzata. No, già è qua vicino a me. Vabbè, dai, saluta Luca, saluta Antonio, quando rientrano e poi alle prossime ce li ascoltiamo. Dai. Ci sentiamo, buona serata, buona continuazione, avanti Luca. Rondino è morto. Beh, mi sa che bennando, me. Se non entrate me ne sto andando. Va bene, dai. Ci ascoltiamo alle prossime, saluto a circolare a tutti e buon proseguo, dai. Ciao Gianni. Ciao, ciao. Qui si è preso dalla chat. Capri 2 a Bisese. Eccolo, ma come fai a indovinare che io sono salito proprio adesso che sono seduto qui? Come fai Gianni a indovinare? Ma sai che c'è un sesto senso. Guarda che a parte gli scherzi a volte mi spavento anch'io, No, io non sono salito proprio in questo momento dal cielo, questo chiaro della porta e questo è il tuo senso. No, salvando quella roba che c'era nel primo canale, non c'è una roba che ho visto. Che la mia moglie lo sta seguendo da ieri. Così però poi è il volo, no? Già come quelli sceneggiati che eravamo prima di avventura, io. Cioè una roba. Forse ce l'ho già visto. Guarda, quando guardo il televisore, guardo il telegiornale, o guardo i documentari, o guardo D-Max oppure Focus, che sono due programmi nuovi che ho scoperto e sono veramente interessanti, ti spiegano come è fatta la roba, come la costruiscono, eccetera, eccetera. Sì, ce lo so già, anche a me i documentari li guardo sempre, soprattutto quelli di Piero Angela, l'animale, perché c'è una cosa di... Mi trattengo anche un po' di astronomia, molto astronomia guardo già. Io ancora un po' meno, ma diciamo sugli animali mi piacciono molto. E addirittura io pensavo che tra l'orso e leone vincesse il leone, invece ieri l'ho guardato uno e l'orso gli ha dato una zampata, l'ha buttato in un burrone e l'ha fatto morire. L'orso non è di meno del leone, l'orso vuole tenuto più al leone, capito? No, ma, cioè, noi ci incontriamo, se non c'è l'altro c'è aver paura, però non so, diciamo, è questione già di istinto, di aspetta che gli altri animali ammazzino per dire la preda, poi va e gliela ruba e non si approfitta. E questo leone aveva ammazzato un bufalo, se lo stava mangiando, un bisonte, un bufalo. Se lo stava mangiando, l'orso è andato, il leone non voleva mollare la preda, si sono azzuffati un paio di volte, il leone l'ha zannato al collo, eccetera, eccetera. Proprio alla fine, dopo che era proprio stremato, l'orso l'ha preso, gli ha dato la zampata, l'ha buttato in terra e gli ha rotto le costole. Però lui piano piano si è rialzato e è andato e ha attaccato l'orso. L'orso ha preso e gli ha dato una zampata con questa forza della zampa che c'ha, l'ha buttato giù in un burrone. Cose che dicono, non so se è vero o se è bugia, Maia, io non li credo manco se li vedo. Hanno previsto la fine del mondo chissà quante volte già e mai c'è stata. E allora? Mentre invece credo più alla religione, a certe cose. E anch'io credo nella religione, che qualche essere già qualcosa ci deve essere. A me mamma mi ha imparato la religione cattolica, seguo la religione cattolica, però guarda, condivido anche la religione maomettana, i testimoni di Geova, tutto, ognuno, tutti quelli che credono in una cosa, perché io dico questo deve essere per forza la mia religione e non può essere la loro, non può essere, io rispetto tutte le religioni già, comunque un essere c'è per forza. Anche io le rispetto tutte, credo nella mia ma rispetto tutte le altre. In ogni caso l'interessante è che uno faccia religione senza fare guerre, ammazzare gente come fanno certi, da gli arabi specialmente la zona della tutta quella zona lì, sono i musulmani, sono per carità kamikaze, chi se ne dà. Infatti già no, però io dico questo perché non vengono qui con questo, mi fanno un collo, un capo per appoggiare il microfono, ho tirato il piede, no, ho aperto il cassetto, ho preso il compensato, venimi in bella, voglio il microfono in noi voi da tavolo, no, niente, già, perché vengono questi desideri, li ho portati, li ho smontati da poco, io ho detto posso anche credere quello che devo, però io mi hanno imparato questa. Quasi che avete ragione voi, o hanno ragione gli arabi, io credo molto in quelli anche già che vanno, tu lo fai andare scarso, inginocchiato, tutte queste cose che fanno della religione, questi paesi arabi e orientali, non vuole che una cosa che credono veramente, proprio ci credono, perché molto li rispetto già. Capito, io in chiesa ci vado poco, sono credente, però questi sono che trovano l'angolino, si mettono a pregare all'altro, queste cose, però se ti vogliamo che vengono qui con degli opuscoli a convincermi a credere, io non, perché io ho detto la frappa dove sono venuti, molto io esco in giro a convincere a voi a credere nella mia, non sapevo, non manco cosa rispondere. Infatti. No, ma non... Io dico la verità. L'interessante è che chi crede debba prodigare sempre pace, non guerre, non guerre, non omicidi, eccetera, eccetera, perché ci sono delle religioni che praticamente il Corano dice che dice di ammazzare e fare male, secondo me no. Infatti già lo so, spesso anche loro che sono sempre in guerra lì con i sanguinari, hai capito? E non rispettano le religioni ebraiche, perché per forza io devo credere? Cioè io li rispetto, contro c'è qualcosa lì, dove io sono mio, perché devo credere io? Se a me e i miei antenati hanno imparato a mio nonno questa religione, mio nonno l'ha imparato a mia madre l'ha imparata a me, io l'ho imparato ai miei figli, perché io devo credere? Non c'è, rispetto, quasi che tu c'hai ragione anche, però io ti posso dire la stessa cosa, perché non credi nella mia? E quello lì, il punto già, hai capito? Come si chiamano? Cioè, perché poi li ho portati anche, già li ho fatti sedere, li ho fatti entrare, non sapevano più manco cosa dire, li ho portati con la mia parlantina a dei discorsi scientifici su come si è creato l'universo, tutte queste cose che io so parlare già, non è che tu mi vedi a baracchino che dico quattro cazzate, quando mi metto a parlare so parlare, so dove toccare i tassi, hai capito? Non sapevano più cosa rispondere già, è inutile che io non mi sono il campanello che viene con questi opuscoli che... Piacetto, li leggo, tutto quanto questo con loro, c'hanno la Bibbia, io ce l'ho la Bibbia, capito? Però la Bibbia è una cosa che io posso rifare, la interpreto a modo mio, tutto quanto queste cose già. Molto ne so se io la Bibbia che ho è vera, o quella che ce l'ho è vera, capito? Sono tutte delle banzanate. Sì, ma non concepisco una cosa, che se vengono arabi qua e hanno i figli a scuola vogliono che togliamo la croce, eccetera eccetera. Non le concepisco queste cose, perché se noi andiamo là loro non ci cambiano la loro religione per agevolare a noi. Penso proprio di no, penso proprio di no, però diciamo che sono molto alla mano di certe persone, hai capito? Alcune ho lasciato fare la religione e io mi sono incazzato la sera, stavo al campo con mia moglie facendo un po' di cose, ma quella religione non c'entra nulla, con questi che si mettono a vendere roba, lo stanno aiutando questo, che lo dico che era, ecco, la madre ha detto compra questo, una sindrome che voglio, e non avevo quello che vuoi, ho dato 10 euro, diciamo, sai cosa ha fatto? Prima se li ha presi, va bene, gli andava benissimo il prezzo, poi ha scambiato la cifra, allora ti do un'altra roba qui, là e o ce l'ha per roba, mi restituisci 10, ho detto non si può più nulla già, stavo per picchiare una schiaffi, questo tipo. Ma cos'era, un negrito? Di questi negri, spappati, forse lo, se invece sta a mercato, non c'è terreno con i due. Allora gli ho detto, la prossima volta, ho guarda la macchina che c'ho, ho detto quando vengo qui, in modo che quando mi vedi parcheggiando scappi, non ti avvicinare più, gli ho detto, perché non sei altro la persona che hai incontrato qui. Ti sto aiutando già, ti ho fatto il prezzo, ti va bene, ti pigli i soldi, puoi dare la cosa che sta parlando già. O quello che si chiama di casa, ma se io ho contrattato per la cinese non penso di tornare i soldi indietro o di darmi la cinese, dopo mi stavo incavolando, si è messa mia moglie in mezzo, se no battono che becciato la faccia per il mio morale. Non te l'ha tornata la cinese? Non mi ha dato né cinto ma di dare tutti i soldi, perché poi sono tutte le fughe. Se io ho contratto per questo che ti va bene, ho detto ti stai aiutando perché dici che hai bisogno, cura, mi ne puoi, ti pensi perché ha detto che pelle questa che qui e là, e mi metti un'altra foto che io non voglio e che tu ti metto le strette o mi dai la cinta o tutti i soldi e fai diciamo l'indiano. Allora già mi pare di arrocciato quindi, mi avrei picchiato di tutto già. E questa cosa è già accaduta con uno del paese, qui gli ha dato due sganassoni a questo. Non ce ne aveva più, ha detto, dei 10 euro. Se te li ho dati adesso, non c'è nessuno. Guarda, stavo per sporcarmi le mani la sera. No, così a pigliare per i fondini non va bene. No, io l'ho pagata a 5 euro una cintura in pelle e ce l'ho ancora in cuoio addirittura, non in pelle. E ce l'ho ancora, non è. Non si è ancora avvrazzata. 10 euro già le stavo dando, penso che il cuore ce l'avevo, me l'ha fatta anche prima a vedere, e va bene. Cioè, perché già non stavo comprando una perché me ne stavo andando, hai capito, con la spesa. È venuto lì con la sua falderia sua, le ha trovato quelle cucinelle, mia moglie porta fortuna, tutto quello piano, siamo piano, siamo passati alla cintola, siamo passati, mi andavo anche bene, io... e poi la roba, hai capito. No, ha detto perché costa, lo so, fatto, allora sì, mi ha proposto, come si chiama, me l'ha ritirata, un coso di calze, come che ha trovato lo schermo di turno, no. Ho detto vabbè non si fa niente, di dammi le... ha detto non ci rientra più i soldi già. Un coso non ti demole, c'è un'offerta. Stavano per partirli quattro belli di schiaffi, gli hanno invitati, la marrocula gli ha fatto guavere. E lo sai che sai, che poi ti prendono per razzista, che questo e quell'altro, ricordi da mai che ti piglierebbe a razzista. No, ma mi puoi dire, se tu ci vuoi fare, io 5 euro già glieli regalo, però a farmi sottomettere, a prendermi per i fondelli, ci vuole anche voi, mi ha detto, a mia moglie ha detto, babbo, stasera ben vestito, a mia moglie l'ha preso per mia figlia, hai capito, e l'ho concesso 56, tutta bella calampata, mia moglie bella pulita, non uscidata, che io manco lo sapevo, perché la macchina adesso la tolgo, l'ho tramata, l'ho usata stasera a portare a capo, a farsi un po' di spesa, niente, la sto usando pochissimo già la macchina, e capito lì, abita la cucina da giugno, e capito, come si chiama, però già, se vuole 10 euro li le regalo, senza fare tutti i cucinini, perché ho molto fastidio già, molto fastidio che se trova lo scemo, capito, di turno, ne trova due o tre, Appena i vicoli due cavanate si ribiglia buco. No, a me non mi è mai successo una cosa del genere, a me me l'ho sempre data la roba, sempre contattato bene. Se lui mi dice un prezzo, dico no, guarda, quello non te lo posso dare, ti posso dare tanto, se ti va bene, se no pazienza. No, vabbè, dammi quelli. Allora, la sorpresa comprata era già, la stavo già, lei non può girare, cosa si fa di più, è comprata, era già comprata, e quando dei soldi da fare l'ha già fatto. E quello in momento non me ne fregava nulla, ero contento che gli avevo dato i soldi, che lui, capito, adesso che non l'aveva mangiato, così sì, che ti fanno, capito? Di voi già, mandica più di a me e ci andiamo da per quello che ha fatto uno del genere, ha preso schiaffi, perché ho assistito anche io la roba del genere, di quei braccialetti che si mettono nel braccio, e io presente stavo per picchiare il paesano a dargli una bella ciuta perché avevo toccato questo, ma poi ho detto, meno male che non ho toccato il paesano, ho fatto bene, già, una lì alla procura, viene di che io ti lo regalo, mi dice, non mi pare, ci avevo a Claudio, eravamo già in ora, che è la scuola che doveva uscire, tutte quante queste belle cose, tu mi fai perdere il tempo perché la roba era più di 10 minuti questa storia, tira e molla, tira e non molla. E adesso già, ho detto, quando io vengo qui dentro, che mi vedo che l'ante fa risparire, perché non ti faccio sparire io, così gli ho detto già, e mi sono anche pentito che gliel'ho detto, però già mi ha portato a un punto di plumarre. Via, di tutte le razze bene, no, ma anche loro ce ne bravi, ce ne cattivi, perché ce n'è uno vicino che sta vicino all'Inps vecchio, quello con i capelli bianchi, la barba bianca, quello lì. Una volta ho messo la moto lì e mi ha detto cosa, ma chi sei tu? Mica tu qua sei un ospite, non ti puoi permettere di andare a dirmi cosa perché ho messo la moto. Perché se no dice che non vedeva la lui che stava vendendo, ma cassi una futti. Gli ho detto tu non paghi tasse, non paghi nulla, io pago il bollo per la moto e poi se permetti la parcheggio dove mi pare, non me lo devi dire tu che cosa devo fare, abbassa le voci, gli ho detto che non sei nessuno, e se no ti metto la museruola, gli ho detto. E allora questi qui lo parlano, hai fatto un costume del 3200 euro di nasa che tra i figli e cose chi me le paga già, me le paga. E però già gli ho sempre dato lì, quando lo scappo con la ponta, nel periodo di Natale c'era questo marocchino, e beh, al bar con quest'altro amico che è morto, dovevo andare lì, non so se ci avrebbe ripassato i soldi, questo amico mio già gli ha comprato tutto, tutta la merce che aveva, poi gli avrà fatti dei regali, tutto l'ha comprato già, per guadagnare i soldi per rientrare in Marocco per le feste, anzi. C'era anche due cose in più. Però i marocchini sono più, ma ce ne sono anche i marocchini, ce ne sono pezzenti già, pezzenti. Io ho iniziato a conoscerli dall'anno scorso e non mi vedo più due. Ma questi negri sono abbastanza socievoli. Io non ho mai avuto a che fare, solo questo qua che mi aveva detto le cose, se mi avesse chiesto non è che per cortesia la puoi spostare, l'avrei anche fatto, ma mi ha detto con prepotenza, capito? Mi ha fatto girare le balle. Oh no, ci sono, non sono tutti, già io non sono l'assista, anzi, per carità io no, guarda, con i cinesi che ho un buon rapporto, sono andato a comprare quella come soprattutto i jeans, i pantaloni tipo questo che ho addosso di velluto per lavoro, hai capito? Le camicie che lo ritengo che sono molto buone perché devo dal 2009, tra la base già, la camicia è sempre. Io ho fatto dei ottimi rapporti, capito? Anche se non condivido che sono venuti, che ci hanno comprato tutto Sassari, non meglio, tutto Sassari, dico, hai capito? Però diciamo che ci sono degli ottimi rapporti. Invece questi qui cade la cosa, si attaccano, come già ci avevo fretta, avevo io di solito già presso il banco, ma hai capito, ci avevo pochi soldi liquido, ho preso 10 euro glielo dati, capito, non ho usato perché lui aveva, poi ha fatto il furbo e volevo, e fanno no, e come stai dicendo tu sei un ospite, qui non glielo ho detto, perché rispetto anche. sconto che si trova a avvicinare, non lo faccio prima con la foca lo picchio. Ma stava scherzando, boh. E tu l'hai presa male oppure era proprio offendente? Offendente già che eravamo 3 ore, cosa fa? E no, no, offendente. Poi io quando fui ho preso la macchina, era con un altro e c'era una discussione stesso. Mettete ormai la fotografia so già, la fotografia se vado. Capito? Quando mi vedi arrivare, tu questa devi sparire. Poi sono passato con un altro, non so se facciamo lo stesso giochetto, non so. Perché io sono troppo, anche lui solo se si avvicina, senza dirmi lo sportello, voi, barche giù voi, di cui non ricorre la faccia. E famosi cosa lì? È scocciata già, perché già avevamo poco tempo che dovevo andare a prendere a Claudio a scuola, quella scena che poi non si è neanche rimasto, adesso si è iscritto al coro del balletto, stai imparando bene l'ordinamento, non ho anche con te, quello vuoi che comprare. E niente, abbiamo 3 minuti, già ho detto veniamo, capito, ogni sera a prendere questo, qui a scuola, di là, vado a fare un po' di spesa, sempre con come si chiama contatti, e minuti contatti, sempre già, e poi trovi il coro che ti aiuto, che poi mi rompi anche le cose, no? Non va bene già, capito? Io sono, capito, la mano di tutti, quando non lo posso aiutare molto volentieri già di cuore veramente, però questa è una cosa che non si è mai verificata, la stessa cosa l'ha fatto un tipo qui a quello schiaffo, e io mi stavo andando a pensare a questo che gli ha dato lo schiaffo di paese. E niente, ho detto guarda che è sbagliato con Carlo qui, la stessa precisa cosa mi è successa, la stessa precisa cosa, allora ho questa è una cosa, ho detto studiata, bella bella, se vuole decidere già gli regalo, però ci ho fretta, non farmi perdere tempo, e quello lì ci scommetto. E allora lì ne approfitta, ti vado in fretta, dici è così almeno molla. Allora, ma io molte volte già voglio mollare, ma io lavoro con te, col banco, ma non c'ho molte volte liquido. Come adesso, se mi giri non c'ho un centesimo, io lavoro così già, hai capito? No? Ma con i tocco i soldi, quando mi arrivano, è tutta roba di carta di credito, di banco, ma anche di... Ormai si lavora con gli altri, ma se non io che devo lasciare anche una tracciabilità. Però va bene, no... Non faccio già di tutta la buon fascio, capito? C'è anche la gente buona, la gente di questi che sono proprio disperati, e... però no, ci sono anche come tutti i figli di coro, questo, ma mi hai capito, ma tra parentesi lascio un po' di bianco, c'è qualcuno che può entrare. Non entra nessuno, va. Stanno tutti ascoltando, tu sei un grande parlatore, quindi ti ascolti. Sì, mi metto a fare l'oratore, mi può fare già, vado come si chiama, fare comizi, mi rendo utile, insomma. Ok, già, allora sai che io, quando ero ragazzo, te l'ho comprato il baracchino, sì, anche io ascoltavo molto, non è che mi buttavo come adesso, anzi avevo timore anche di andare dall'altra parte del microfono e un po' i miei zii mi inculcavano. E proprio taciturno, mi sarebbe rimasta così taciturno, e poi questa roba già forse se c'è questa palatina lo va baracchino, perché prima ero proprio timido, hai capito? E invece qui però sta conoscendo gente tanti cosi, ho studiato, ho fatto i primi anni di scuola media Sassari, poi un po' giù, quindi lì, capito, sono entrato nell'ambiente, c'ho fra io di Grezza e anche, capito, diciamo, saputo, diciamo, stabilire nei tifosi, perché prima ero proprio, sembravo scelto dalla grassuccia, dell'urattagaggio, non avevo noi. E ok. Allora, dimmi già, la passata sta venendo al ghero, mi detto, così, se non sbaglio, metto che sta venendo l'aeroporto, che è successo? No, al ghero stavo andando per accompagnare mia moglie e il bambino, che stavano andando a Roma e ci accompagno anch'io. Tutto bene, insomma, per cose benevoli, no? E Marco doveva fare delle visite, siccome il passassari non ci hanno soddisfatto, portava il bambino Gesù. E già, guarda, nessuno è soddisfatto già molte volte, già ci sono i centri, diciamo, buoni, per l'ospedale io già lavoro. Ho perso la fiducia e un po', guarda, sono disgustato per tante cose, non so se mi sto sbagliando, oppure se, guarda, se dovevo andare così, se Zana non sta canto in piedi suoi, già, come da Nadia dove mi chiudo, tranquillamente, anzi mi ha detto, ci vediamo l'altro per l'anziato, tranquillo, che ho chiuso questa cosa è degenerata, io non vedevo altro che Fleppi, non sapevo le cose che sto facendo, perché mi hanno tenuto anche la roba nascosta, capito, però ho detto a mia sorella, secondo me non si poteva tentare, diciamo, un'altra parte fare, no? Io ho visto che la roba alla televisione, non so se è seguito l'altro giorno, che questi medici stavano praticamente sperimentando come capi umane sugli ammalati, non so se l'hai sentito, li hanno anche messi dentro, sono neutro. Che mi ha fatto così con mamma, mi stiamo andando a poco su in casa, mi riprendi già. E lo sai cos'è? Che sugli anziani non c'hanno molta molto impegno, non ci mettono molto impegno, forse secondo me era Gabbanetti. Gabbanetti a Gribatti. Sì, già, ti sto dicendo, ci abbiamo un dolore da una data con lo spirito, con il più fatto. Capito, non ho figli del buco, non lo so. Guarda, non so, quindi è meglio che rimanga su quello che hanno detto loro e mi capisco, se non vuoi, divento anche cattivo già. Ma no, perché, oltre a fare il giornale, non vogliamo guardare, perché quando si può fare la roba per il giornale, già a me mi sa che sono la testa, stava fuori, alla parte con mamma, dai, come è venuto a stare a lo zampo, tanto roba. E faceva giorni questa cosa. Ed è andata ridendo con i piedi suoi, lei capito già, perché per non aspettare a fare mani analisi qui là che è fatta e invece trovati che devo andare per il giornale già che sono queste cose, poi io non ne guardo più le fa mia moglie, perché poi ripeto, sono sempre teso da allora, già ho cambiato parecchio, hai capito? Una persona non mi è niente. Questo è quello che stanno succedendo, cioè mi dà molto molto fastidio. Papà, chi vuole entrare avanti? Vabbè, già, non ho detto che sia da tutte le parti così, magari lì è successo così, ma non ho detto che è da tutte le parti. Però una cosa ti dico, a mio padre io l'ho portato tranquillo, a piedi così, tranquillo camminava, dopo un paio di giorni ci ha detto, beh, tutti bene, state, sì. Tu bene, stai, non vi preoccupate, già sto bene. Beh, il giorno dopo è entrato in coma. È stato 12 giorni, lo sai cosa ha messo il dottore? Abbiamo tentato anche a staccare l'ossigeno, ma è di fibra molto dura, molto resistente, eccetera, eccetera. Cazzo, te lo dici pure, gli ha staccato l'ossigeno per fare un gribame. Guarda, una cosa già, io ho visto perché mi è morto in male che ha dato una dottoressa e chiuso con la chiave, però questa dottoressa che ha preso con la siringa di quelle che usano i chirurghi, non lo so cosa cavolo già, io so che capito era da morire, si è stata tranquilla, già tranquillissima, e quello lì è il coso che mi dà fastidio. Come sorella ho pensato da oggi le nostre strade si dividono, detto, perché io me lo vedo subito, avrei fatto il policlinico gemelli, conosco gente, conosco lì a Roma, avrei attivato, però avrei tentato già, capito, ma non è andata così, però ecco, avrei tentato, come quello che sta giocando a carte, se ce l'ha in mano le gioca tutte, le gioca, hai capito? Hai? E babbo lì, anche con babbo non sono tanto in buoni così, perché si è lasciato abbindolare, cioè, alle prime cose che ti dicono tu, Zan, vai, perché lui già lì, ricoverata, c'era una zia di quella che lavora all'elettrauto con Meloni, che Anna la conosco una vita, la tua zia è venuta a stare in mani in piedi, e mossa e già è saluto. In geriatria le cose le ricoverate. Ma quel padiglione rosso già che c'è al settimo piano. Cappa. Vabbè, quando sono anziani così, è proprio la prassi loro, hanno una scala, hanno dal più giovane al più anziano. Gli anziani li considerano molto poco, ti dico la verità. Io nell'ambiente ospedaliere sono stato tanti anni e so come sono. Che mamma c'era il primo giorno che è andata, cioè due giorni, c'è una donna di russi, questa l'ho preso, lo so. Allora, io cosa per mirare di russi, una chi non mi fila da... E una chi paga di e una chi di do. Questa è quella donna che stasera, quando sono andato a fare la spesa, la facciata alla finestra, con la faida, con la frase, e con la fotografia da coppia, cosa per mirare, mamma mia, vedete. A questa che su tale la buttare per dirti non ti hai capito, però non so se, come si chiama, che anche tu avete fatto bene Gianni a fare, capito, a fare dei controlli fuori, fate bene, grazie. Sì, no, qui non riesco a seguirlo come c'è, cioè, non gli ho dato nessun medicinale, niente, cosa. Allora, facciamo una cosa, andiamo al Bambi Gesù o al Gemelli, dipende. Siamo andati da Bambi Gesù e ci hanno soddisfatto, una gentilezza. Quando c'è l'appuntamento ti avvisano tramite cellulare, ti mandano il messaggino, domani appuntamento, eccetera, eccetera, ricordate. Io non sono rientrati già. No, no, non sono rientrati. Deve fare una visita domani e poi rientro. Anche quando la gente che non è gente mia, rimango anche io in ansia, ma io già rimango in ansia anche quando c'è Maria De Filippi, con questo che posa per sé, di questi cosi della busta, hai capito, mi commuovo pure già, hai capito, io sono una persona molto sensibile, ma allo stesso tempo sono una persona molto... Hai capito, se non te la tua mi rompe le cose, sono molto cattivo già, però sono sensibilissimo e molto altruista già, perché bisogna essere così con le persone, eccetera. Se uno tenta di pigliarti per i fondelli, che ti pesa i piedi, allora le rendo pan per focaccia già, però queste cose sono, guarda, ripeto, sono dei sentimenti profondi. E anche ti capisco, perché sono anch'io così, anche a me mi scendono le lacrimucce, infatti a mia moglie dico, cosa facciamo? Alleniamo le ghiande lacrimali, stasera ce le usciamo, che dovremmo avere figli, per carità, le vedo certe di cose, certi genitori che appartengono dopo 15 anni che non cercano i figli, poi vanno lì per cercarli. Io ne ho visto uno quando era una settimana fa già. Hai capito? Ma io non manco ci devono andare a cercare il figlio, perché questo ci aveva fatto anche un'altra famiglia, ci aveva dei altri figli, capito? Non ci deve manco andare quando non è così. Perché qua si ha parlato, mia madre ci ha fatto una compagna, un compagno, ho detto, mi ha fatto grande lui e per me il padre è lui, ed è così, Gianni, perché il figlio non è chi lo fa, è quello che lo tira su, che lo allegra e tutte queste belle cose, e tutto sono situazioni e molte volte a qualche giorno gli chiudono anche la busta in faccia. Beh, sono cose più che rimangono ai figli, compleanni, momenti che di cose che tutti si trovano, tipo Natale, Pasqua, che non c'è il genitore, la mancanza la sentono, se lo portano avanti questo, magari dentro di sé li vogliono bene, però per ripicca non lo accettano, capito, perché li ha fatti soffrire. Infatti, per come si capa i figli si fa quelle altre già, i genitori anche non possono andare d'accordo, le posso, però per i figli, capito, bisogna stare fino all'ultimo, il matrimonio bisogna salvarlo, capito, bisogna, io ho già, sono campioni, io già di casini, di più del però, capito, per i figli si evita, capito, e io sì, adesso, non esco più già, ecco, perché mi trovo sempre qui nelle radio, capito? Non vado neanche, non esco, cosa la vado a bloccare già. Perché c'è sempre quello che è fissato, quando vado vedo una bella donna, è bella, ecco che è bella, però la famiglia già non si cambia per nessuno, non si cambia per nessun motivo, uno deve, perché la moglie è la madre dei figli, e capito, io non ho coraggio già di. Capito, dimissioni da poco di bambini contesi e non è bello già. Con un pacco postale che va una settimana da uno, una settimana dall'altro. E io via. Lo so che è così. Io ho amiche che sono separate, lo so cosa vuol dire. Purtroppo non è una decisione loro, è stata una decisione del marito. Magari uno vuole salvare il matrimonio e l'altro no. Sempre la cosa bisogna farla in due, o no? Fatica, come si fa, capito? Finché con i suoi figli va bene, ognuno qui della sua via di nuovo, buonanotte suonatori, però quando ci rifiglia come si chiama, il matrimonio è una cosa che è più fisico, sono ricetto quanto quello che vuoi, tutte le cose che vuoi, però anche se ti sono grandi già, hai capito, non è una che ormai sono umano, non è così, i figli anzi forse non esistono più quando sono grandi, perché quando il bambino è piccolo non capisce, anche, hai capito, si può abituare anche poi a un certo tenore di vita, però quando sono che già iniziano non è stato di capire, bisogna essere, ecco, queste trasmissioni che fanno e la gente solo da lì, come facciamo noi già che molte volte lo stiamo guardando, che abbiamo famiglia, che ci sono le lacrime, sole sole, devono capire già gli altri che guardano quando si trovano in certe situazioni di guardarsi bene le bagatelle da cazzare. Già te stavo dicendo, l'hai visto quello che gli mancava il lavoro, che faceva di tutto per la famiglia, non mangiava manco lui, aspettava che piovesse per andare a fare le lumache, per vendersene e farsi qualche lira, perché non c'erano più lì, più una lira per campare, ma quei figli. E l'ho visto che è venuto questo giocatore, c'è quello che è, questa roba la poco lì. L'ho visto già quello lì, hai capito? Però diciamo che cioè non è che uno proprio è a quel punto, io ho visto famiglie già, però di quando mai quello lì era a quel punto, questo qui ho detto io. Già ci sono, mio. Ci sono anche a quel punto lì. Se uno è abituato a lavorare, poi la moglie invece di capirlo gli diceva che era un buon a nulla, che non sapeva portare manco il pane a casa per i figli, la umiliava. E non vedo come era che diceva proprio, però e poi non andava a vivere la madre con lui, capito, vivevano dai suoceri. Però proprio da loro era già iniziato, cioè non lo dico, perché avevano perso, diciamo, erano stati anche trattati a quanto so. No, me lo ricordo quello, comunque mi ricordo che gli hanno regalato una moto carrozzella per fare i viaggi. Io ho visto questo, mi aveva due bambine, che era un disperato, la moglie, e tutti questi casi, già, però è la realtà, hai capito? È realtà, purtroppo c'è gente, noi già ci possiamo considerare fortunati che diciamo io stavo frattemi adesso sui 3.000 euro partono questo mese, però lo so, sto aspettando anche la ricordazione delle fatture, ma con i soldi della campagna già li prendo da lì, poi l'altro arriverà, aggiungiamo le comprese, c'è un come si chiama, hai capito, il pullman non è che sto incassando già, ho fatto un po' di capi di uscite, ha presi tracciati, però tutto quello che ci ho messo, hai capito, assicurazione, che fa un sacco di soldi, passaggi, cambio di targhe, tutti questi come si chiama, adesso ci vogliono anche due gomme, ci voglio il padre di strada c'è, però le gomme le ho viste che sono cristallizzate, che vogliono cambiare, tutto c'è, quindi già sapete che sia una roba molto redditizia, perché diciamo è capitato con la crisi questa roba, sperato di trovare, vabbè che l'ho comprato anche in un periodo, diciamo, poi stavo aspettando poi le licenze, la Cagliari, sì, qualcosa l'abbiamo fatta, però poche uscite già, e di più ho fatto quel lavoro per il comune, con le piscine, prossimo anno, hai capito, perché in mezzo è poi in buone condizioni già, però c'è anche gli anni dentro, impeccabile rivestimento e tutte queste belle cose già, anche gli aree comunque non mi fido, perché era facile, però qualche cosa ho detto, escano un paio di viaggi al mese, quando è tutto regolarizzato, allora la macchina a posto, che abbiamo fatto tutte queste le cose, hai capito? Se su di lì ho detto, qualcosa c'è, hai capito? Un piccolo stipendietto al mese delle fuori tasse che dovrebbe uscire già, però non più di tanto, hai capito? Io l'ho fatto per lui e spero che, hai capito, adesso il prossimo anno lo farà tutto bene, se no già torniamo a stare come siamo, quanto c'è il lavoro che faccio e perché già in campagna volevo fare, mi spare, però era lontano e ho dovuto accedere già, perché non ce la faccio, per pigliarsi la via il fuoco, meglio l'ho venuta. Noi a Cenerola di occasione in una campagna lì vicino a Piazza Mona, prima del terzo pittine, sulla destra lì, stavano vendendo 25.000 euro, c'è con casa e tutto. Un affarone, se aveva avuto un'idea me l'aveva abbigliata. E già lì no, diciamo, però bisogna spostarsi, capito? Io ce l'avevo, guarda, se acceleravo la macchina in 10 minuti ero lì, però già ci andavi quando ci avevi i tagli di tempo, mi si è spugnata tre volte, ritornavi, ce l'avevo fatta, temendo sempre che poi ci passa il fuoco, fanno gli altri, la mia c'era il posto, c'era tutto e hai capito che qua di 100 anni di ulivo, una figlia che voleva ripristinata, che la volevo fare, hai capito, una bellissima entrata, te la faccio vedere, ci vuole il posto. Era perché era distante, non ce la facevo, ho detto mi faccio questo, non faccio altro. E poi molte volte lavorava bene, l'anno scorso l'ho fatta, che era un miliardo. Già, siamo andati luglio per quello che costava a fare la macchina, perché c'era, conveniva andare a comprarselo, quindi il vino mi avevo comprato l'uva, perché cosa c'era? Non c'era l'uva, dei ciliegi, lo stesso, ce n'erano pochi, dopo se ne hanno rubato quasi tutto il raccolto e nulla, in poche parole sto tornando solo a sprecarci la benzina, così, oppure serviva, mi la domenica vai, ti pigli un chilo di bistecche e te le cucini, però peraltro no, non serviva. Ma questo era tutto a frutteto, c'era la vigna davanti, come entravi c'era tutta la vigna lungo il viale. E poi camminavi a fianco alla vigna, no? Se no arrivavi alla casa. La casa è a livello di terreno, è fatta sotto, tipo bunker. Devi vedere che casa grande. Perché non aveva i metri, bah, non aveva i metri quadri giusti per di terreno per costruire e là l'ha fatta così, poi quando dice mi danno il permesso la sopperevo. Sì, perché già c'è un piano regolatore su tutti questi, diciamo, le quote per in base al metraggio, io ci avevo fatto la casa di legno, quellina lì, infatti l'ho lasciata e ho detto guarda io le lascio come. Ma già che quanto l'ho venduta, quanto pensi che l'abbia venduta io? Una campagna adesso con quale c'è trovato il mio libro, il posto, questa piccola casetta stiamo parlando di quasi 8.000 metri, di questo che lo posso aver venduta. 25.000 euro. A quale 25 già? 7.000 euro l'ho venduta. 7.000 euro che gente mi ha detto già, è tutto in casa. Ho detto quando è compromesso, 7.000 euro già, proprio perché l'opera situata era venuta questa la dovessa, non ci ho fatto questo valore già. 7.000 euro lo vedevo regalata. Sì, allora non l'hai venduta, l'hai svenduta. Non ho detto qua, io qui non ci voglio più ritornare perché mi ho scassato la Volvo, perché era il pezzo della strada che non era agibile. Guardi, non ci voglio più tornare, ho detto se troviamo una soluzione già, solo che se uno va a fare un posto lì che poi era babbo, l'ha fatto anche di più. metri quadri era? 5.000, loro erano confinanti, erano, hai capito, è giusto per liberarmene già, perché niente, voi che sarei più tornato già, avete di andare in verbale, dovrei andare così, solo per quando volete cucinare un pino di bistecca, lì attacchi il fuoco dell'acqua, hai capito, per fare corno, poi faccio quattro molto già, si è guardata la macchina, e non potevo muovere il laziale, a quando sono tornato è un po' secco. Oliva, da quando me l'avevo lasciato, ci ho fatto, cosa sto dicendo? La male faccia per i soli di luglio, tutto portato, ci ho fatto 15 litri, non di più, perché non ce n'era. A me sembra che mi, quella sera mi ha chiamato oggi, perché mi ha fermato lo stadio per andare, che è andata buona che ci sono gli olivi, allora ho detto, è tutto il mio sfavore, perché l'ho portato io, no? Hai capito? Magari quello anche che poi, quando lo porti, gli altri rendono. Comunque io da quando ce l'avevo già, non ci ho fatto niente, non ne sono d'accordo. Già è redditizio quando non li putti, perché non è che sono di più, ma questa persona che stava avendo la campagna lì aveva dato i soldi all'avvocato per regolarizzare tutto quanto, no, della casa, e l'ha fatto questo avvocato, se si è fuggito pure di Napoli. Anche tu bisogna stare attenti, io posso fare lo stesso, già posso dire che non firmo, perché hai capito, i soldi mi li ha dati, c'ho anche quello che mi ha fatto il bonifico, me lo posso tenere, ma hanno trovato una persona onesta, cioè, hai capito, bisogna queste persone acchiappare l'avvocato che ha fatto quei soldi, io non gli avrei dato una cosa conclusa. Hai capito, già dovevo essere onesti nella vita, non è stata la più bella cosa che esista, non c'è niente al mondo, già. Non c'è niente al mondo, perché, capito, quando uno adesso io nel corpo ve l'ho raccolto, perché ve l'avevo fatto copiare da tardi, però faccio sparire questa cosa, ecco, quando se la posso dire non poi, a me non mi ha dato nulla, siccome sono confinati, questi soldi me li ha dati perché mi ha fatto danno potenziale, capito? Posso trovarmi di scuro, ma siccome io già sono una persona onesta, abbiamo fatto come si chiama, così due righe, con la penna io devo andare a mettere la prima, come si chiama, è claro, volentieri già, ed è così. Purtroppo gente al mondo ce ne trova tutti i tipi, io non sono di quelli già, ho veduto che mi è venuta così, non l'ho comprata io, tutte queste cose, a malincuore, mamma nel cielo ci sia, però non mi conveniva già davvero, altrimenti me l'avrei coltivata, me l'avrei, era diciamo, andare ecco, a farsi il giro, a coltivare, poi magari a trovare una chiusa con i bocchi, ci sono entrato, c'è stato il bestiame di questi signori anche, che ho tolto in faccia, erano pronti a pagare il danno, se io non voglio niente, ho detto ma visto che siete confidanti, sono contento di darlo a voi, tutto lì quello che ho detto già. Vabbè, se è ritenuto possono fare così, vuol dire che andava bene così, solo che qualcosa in più magari avresti potuto prendere se la vendevi a un'agenzia di quelli che vendono le case, la mettevi in un'agenzia e magari qualcosa in più l'avresti venduta. Sì, lo sai come sono le agenzie già, ho qualcosa in meno vi ho tenuto, lo sai qui ci sono dei, come si chiama, delle agenzie, delle case, per non parlare di usi quando salgo, vendi di questa, di via sotto, lo sai quanti anni che sto salendo, c'è sempre l'infisso già, ha trovato pochi maledetti e subito come te ne va su 11, mi dispiace per i ragazzi, cioè non è che mi dispiace, perché nessuno dei due era propenso ad andare, ecco, non ci piace a noi qua, nessuno dei due era propenso ad andarci, comunque, l'altro ci ha pigliato una bella macchina, non da quei soldi, naturalmente, da altri soldi che a me Babbo mi doveva dare, che io non ho la... anche quando è morta mamma gli ha preso sempre lui le cose per fisarmonico, per la macchina, hai capito, sempre Babbo che è già, però quei soldi lui è il nipote, a me mio dopo qualche video vi ha chiamato, quindi già a Claudio anche io devo adesso, diciamo, non pareggiare, insomma, lì ci vuole il nuovo granito, lo sto chiamando, faccio il telefonato, glielo compro a seconda mano, hai capito, bisogna... Rublaut. Cose, la porta tagliata non lo siete giuste. Se io, lui mi ha tagliato, no, non ho questo, gli ho detto, che te lo fa nonno. Sono miei adesso, perché quando dà la cosa a te, la dice a mia sorella, quindi Gianni c'è sempre liscio, già ci sono usciti tutti. Però sono con chi cannoso. Mio figlio. Gappa gappa, bella fortuna, cioè. E vabbè, comunque devi fare in modo che non ci siano gelosie tra di loro, perché a mio avviso i figli sono tutti uguali, quindi quello che ha uno deve avere l'altro. Addirittura io, mia moglie, come fratello, se la madre gli dà qualche cosa a mia moglie dice, ma gliel'è data a Massimo? Capito? Subito. E lui è lo stesso con lì, sono proprio di amore d'accordo sempre. E mi sembra che sei un bimbi, chi c'è? Sono io. Ma tu sei già? No, ma anche io con mia sorella lo sa benissimo. Secondo me, mi ho messo anche io soldi e già, il poco che mi ho dovuto accolare l'alfa già, perché io ho l'alfa adesso. Non so poco per... L'organetto. Se lo avessi comprato proprio, glielo avrei avuto a casa. Ho un'altra macchina, però se io mi compro un'altra macchina, ho detto, che tu devi andare a suonare, se io mi voglio comprare un'ipotesi, un appunto, un'altra, la roba non ci sta più dentro, quindi bisogna... Ho detto, fatti per la mia, tanto finisci poco con mamma, devo già fare quelle giusto, vado per la spesa, solo per i bisogni già, però ho detto, per come si chiama, che se... La sportiva, ti compri una macchina che ti carichi la roba bene, è stato fortunato già, la macchina è bellissima, e che c'è il gancio di traino anche, quindi abbiamo salvato il carrello, quello era molto importante perché io già avevo quella rotaia sulla bocca, c'ho quel gancio, ho il carrello che adesso anche detto proprio che... Io sono la fisarmonica, quindi che quello fa quando mangio il carciofo. Anche io questo tuo. A me a Claudio glielo dico, guarda che questi soldi, ho detto, come il nonno che da, non sono io che sto, però c'è la... Io sono la fisarmonica. Claudio, insomma. Quando mangio i carciofi. Questa, lui c'è l'appartamentino suo, però è molto più piccolo di questa già. E poi ti ho detto, adesso devo pensare a Claudio, perché mi darò la patente, qualche aiuto, lo dovrò dare a lui, però la macchina già la levo, quando mi vagliala, perché comprare una macchina già, come molta gente vedo, che i genitori le comprano la macchina, e chi vuole deve campare in usa, buru, e che se ne vanno a me. Queste cose non mi vanno bene, la macchina una volta in Italia la compro già, se c'è il lavoro si dà un aiuto e paga per lavorare, anche c'è il divertimento, tutto quello che vuoi, però non per fare di rotanando consumando benzina e levando i soldi dalla mia tasca, quello no via. Noi mi te prende la tua. Quella perché è veloce, già con la macchina lì io te la posso anche dare, a me mi serve o non mi serve, mi devo mettermi, però già è sempre un 1.8 in una scheda quell'altra. Io non so quando rimane, anche settimane fermami. E vado a fare la meno mossa perché per mia compagna è a fare la storia al supermercato, dice, sto tranquillo, le cose vuole fare anch'io, ma lo sto facendo domani, insomma, andiamo stasera, abbiamo fatto la spesa, poi rimane lì già, la uso solo i bisogni, la macchina, i miei giri già, sono finiti, insomma, a meno che non sia una cosa urgente, una cosa, hai capito, capito, ma fare come ci sono centri che se la portano fino a pisciare, quei curi sono finiti. E vabbè, adesso la benzina c'è anche diminuito, dai, anche se ogni tanto rincara, ma adesso ho visto che ha diminuito circa 2 euro. Quanto? Circa 2 euro. Io a Porto se l'ho pagata 1,530 euro mi pare. Perché il gasolio, però mi sa proprio il gasolio già, siccome no, se no fare faccio due giro con lo scuola la mattina, ogni due giorni, poi abbiamo il bidone dentro all'AESO, perché devo guidare proprio un ragazzo che è proprio dietro l'AESO, lì pensavo dopo a fare il giro per metterlo dentro l'AESO, cioè il bidone, e mi sono accorto già che prima con 10 euro o con 20 euro era, capito, sugli 11 e qualcosa, più di 12 mi sembra che, quindi è diventato il casolio anche. Sì, sì, tutti e due. Comunque io l'ho beccata di sabato mattina, non lo so se hanno diminuito, ma il riflettore era esso, non era agico. E io, diciamo, all'AESO già che consuma i sabati, adesso no, in estate c'erano queste offerte, infatti io quando dovevo uscire il pullman lo rifornivo il sabato, scendevo con la macchina, siccome ci abbiamo la strada adesso di Sestata, per andare lì poi bisogna fare tutto un giro strano, hai capito, anche quando faccio un pit devo fare più giro, e scendevo con la Polo, pigliavo il bidone da 20, pigliavo e con l'euro 7 e li riempivo e poi lo rifornivo perché c'erano questi sconti. Però quanto era, ho capito, più di 20 centesimi, tranquillo. E così, già approfittavo di quegli sconti, giusto perché se ne metti 10 euro la vale denuncia, però se ne mettevo anche 300 euro di gasolio, 350, le mettevo al pullman, capito, lì la convenienza penso che ci sia. Beh, quanto ce ne sta in pieno, quanto è? E più di 500 euro già, penso più di 500 euro. Ezza, allora. E consumi quando ti fa il litro? Quando ho fatto le piscine quest'anno, o perché noi stavamo a fare le prime armi, viaggiando, diciamo, Ottavio per andare a Sassari, ne avete fatto 50 euro, così lo vedevamo che prendere, invece facendo su per strada, se ti lunghi io penso che faccia il 3 anche molte volte se lo puoi andare giusto, anche il 4 già. Pochino, Vabbè, ma da un viaggio più o meno quanto si guadagna, da un viaggio completo. Mi piace che Rafa tratta se tutto quando considero un'uscita. Fai il conto che andiamo a, cosa ti posso dire, a Oristano, calcolo, non dico molto, un 150 euro di gasolio, che gli pigli 4,50, più le tasse ho preso quasi 200 euro ti rimane in tasca. Dice va bene, dai, non è male. E però c'ho pure le donne non così a come, non ho considerato il clima, io già qui ero a mesi da Castelsardo per non portare il pullman lì, perché non vai lì, sì, ho detto se io vado a Castelsardo, ho detto lui quando viene qui con la nappa, con la macchina, ho detto non consuma la nappa perché ci metto di andare, quindi il prezzo, ho detto siamo lì, e riesco a risparmiare qualcosa, per 350 euro a caricare i serbatoi del clima, del gas del clima. Sì, ma se ti fai che Chicago il bulubile un biglietto di 500 euro a lavoro, poi ci metto la benzina per andare, le ruote, l'olio, e allora se facciamo questi calcoli, io sto dicendo di netto c'hai un guadagno, è quello che conta. Sì, però già non è sempre che viaggi, hai capito? Non è sempre che viaggi, adesso hai capito, non buttare fuori i soldi dell'assicurazione, delle pratiche al tratto, queste cose, una volta che mi ho tirato un po' come si chiama, per esempio per il paese, capito, posso fare anche dei prezzi stracciati perché me lo guido io, hai capito, tanto sono già scritto come si chiama, quindi se da fare 50 euro in meno ci fanno, hai capito, che si viaggia, però se io come l'altra volta mi mettono, mi chiama Ossi, che devi andare a Cuspidi, e che io gli ho chiesto 600 euro proprio tracciato, te devo pure dare 100 euro in meno, gli ho rifiutato il viaggio già. Beh, se non ce la compri niente, è inutile che ti fai strozzinare. Poi il mercato si perde. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Qualche azienda sarà il televisore. Sono chiamati, non sai cos'è, anche tutte quante cose che bisogna mettere in conto. Si scoppia una gomma, si succede qualsiasi, come si chiama, anche già facendo le corna, che ti succede un guasto, che sui passeggeri, che devo chiamare un altro pullman, quello lì è il più che io ho messo subito nel conto. Se io ti ho fatto questo prezzo, che devo andare lì, che mi si guasta il pullman, perché non anche il pullman nuovo si guasta già, perché gli è capitato, se io devo chiamare un altro pullman, hai capito, io non ci metto la tasca già. Quello sì, ma sarà tutti i giorni così. Sì, un po' ottimista. Ottimista però si mettono tutte quante cose, si mettono le calcolo, io non è che siamo andati a Sassari, ecco, capito, da una cosa lo metti in un'area di sosta, viene un meccanico, però quando c'è, non è un camion che trasporta merce, i passeggeri li devo subito, diciamo, portare a fiabilità, renderli agevoli, tutte quante cose, chiamare immediatamente secondo la calzata che c'è, non trattenerli molto, un'altra vettura già e fare il viaggio, capito, rendere, come si chiama, come che non ci è capitato nulla, infatti sono tutti gli indirizzi dei colleghi, dei Puma, di ogni, come si chiama, dove passa il Puma, se si dovrebbe, e anche con io di mia moglie, di mia volta, c'è il Puma, di mio dato transfert, l'avevo fatto, Olbia, Morosolbia, Olbia, Ottana, Ottai, Ottretto, quei cosi li ho fatti, strade impervie già, e purtroppo funzionava bene, però, capito, i motori già sono i motori, si guastano da un momento all'altro, e quindi bisogna essere anche previdenti, anche se in calendario, ma chi conosci, tu conosco questo, già presi i contatti telefonici, ci siamo presentati qui per telefono, qui se ho bisogno ti chiamo, se hai bisogno tu che sei in zona, perché non è cosa, chiami a me, tutte quante queste cose già, perché guarda, disagiare i passeggeri è brutto. Tu chi siete? Vabbè, ciao Luca. Ciao Luca. Buonasera, sono qua, mi sentite? Sì. La Puglia. Mi ritrovano una Coppa Malù, sta del 16 novembre. Io me la mangio oggi, così non scade più. Cattolica, sanno quella nasce la mamma, se la dica nasce la mamma e subente, di cura. Ok, già, riprendi. Io già, dai. È entrato Luca, facciamo riprendere a lui. Fatto mal gamba. Buongiorno, dottore. Voce voce vuol dire che è già in fase di tirando il cavolo. Affannato. Ora sai che oggi mi sono fatto una bella dormita. Dalle 2 alle 5. Wow. Ah, proprio tutta una tirata, non ha squillato nel telefono e nulla, proprio sono stato una pacchia. C'è sempre quello di sopra, sta facendo dei lavori, sta martellando, però anche quello è passato in secondo ordine. Meglio. Stanchetta, ho dormito proprio bene. A parte i capi due, tutti stanchi guidando. Sì, io sono abituato. A proposito di martellate, è vero già, il vicino c'è, che la domenica si fa la sveglia e la restaurata questa casa fa sempre i cadaveri. Ogni domenica io già, se devo far vedere qualche mezz'ora in più ho letto, non lo sembra capito che ne sta tenendo la casa. E qui lo stesso, ma non aspetta la domenica, che è in orario verso le 2, le 2 e mezza. Infatti l'altro giorno gli hanno bussato il muro. A me è capitato, lui è sempre così, io gli chiedevo il muro, cioè parecchiane, sempre il muro, sempre c'è da fare, e questa cosa è fatta, come si chiama, di mettere il coso della parte a raio, io non ce n'era, non so come l'ha fatto mettere il coso a vista, cioè. abbastanza brutta, eh. Infatti il letto lo chiamo amico letto. Ciao, buonanotte.